Storie italiane. Tidù il suonatore. C'era una volta un povero contadino con moglie e figli. Lavoravano tutti duramente nei campi per guadagnare il poco pane che avevano. Lavoravano tutti duramente, tranne il figlio più giovane del contadino, Tidù. Tidù stava sempre a letto e non mostrava alcuna intenzione di preoccuparsi di qualsiasi lavoro. Non importa quanto la sua famiglia lo tormentasse. Se il fastidio diventava troppo, Tidù se ne andava nella foresta. Lì dormiva nella piacevole ombra degli alberi e suonava il suo flauto. Un giorno, mentre suonava il flauto, un uomo gli passò accanto. Come suoni meravigliosamente il flauto. Grazie. Vorrei poter semplicemente sedermi e suonare, non fare uno straccio di lavoro nella mia vita e diventare l'uomo più ricco di tutto il regno. Nessun sogno diventa realtà quando si sta fermi, ragazzo. Nessun uomo che sia mai vissuto è diventato ricco senza lavorare. Ma odio lavorare. Perché non suoni il flauto o il piffero per le persone in giro? Non ho flauti e non ho nemmeno soldi per comprarli. Suona sul suo flauto allora. Presto avrei abbastanza soldi per comprarne di diversi. Quindi Tidù iniziò a suonare il flauto per la gente del suo villaggio. Suonava così magnificamente che la gente metteva felicemente le monete nel cappello. E presto Tidù ebbe abbastanza soldi per comprare molti flauti. Li suonava anche meglio del suo primo flauto. E non c'era un villaggio per 20 villaggi intorno dove Tidù non venisse invitato per suonare a matrimoni e cerimonie. Tidù, non abbiamo mai sentito musica così dolce nelle nostre vite. Non conosco alcuna somma che renderebbe giustizia alla tua arte. Ma per ora, per favore, accetta 1000 monete d'oro per la tua esibizione. Grazie, signore. Si potrebbe pensare che tutta quella ricchezza avesse reso felice Tidù. Invece lo rese solamente più avido. Era da molto che aveva lasciato la casa e invece di tornare dalla sua famiglia, decise di andare nella famosa terra di Kungla. Si diceva che ogni famiglia di Kungla fosse più ricca di 50 re messi assieme. I miei soldi? Dove sono finiti i miei soldi? Immagina se suonassi a Kungla, diventerei così ricco. Così Tidù impacchettò i suoi tesori e i suoi flauti e andò ad una nave che andava a Kungla. Ma Tidù si rifiutò di acquistare il biglietto, mentendo, dicendo di non avere soldi, quando chiaramente ne aveva più che abbastanza. Mi scusi, signore, il suo biglietto, per favore? Non ne ho uno. Spiacente, non posso farlo salire senza un biglietto. Sono un povero uomo. Avrei comprato il biglietto se avessi potuto. Mi dispiace. Uno dei marinai sulla nave riconobbe Tidù. Lo aveva sentito suonare i flauti. Lo chiamò piano piano. Shh, qui. Non sei tu il famoso suonatore di flauti? Sì. Dovresti avere soldi più che sufficienti per acquistare il biglietto. Ma poiché so quanto suoni bene, ti lascerò entrare. Di notte dovrai saltare in acqua e nuotare dietro la barca. Farò sì che il capitano ti tiri su. Dovrai dire al capitano che hai nuotato fino a qui dietro la nave. Tidù era diventato così avaro che accettò lo strano piano. E di notte uscì dalla cabina del marinaio e si gettò in acqua. Il marinaio gridò: c'è un uomo che nuota dietro la nave! C'è un uomo che nuota dietro la nave! Sembra che stia per affogare! Presto, prendete le corde per tirarlo su, presto! Aiuto! Aiuto! Tirarono Tidù su nella nave. Come sei arrivato qui? Dato che non mi ha permesso di salire sulla nave senza biglietto, ho nuotato dietro di essa, ma ora stavo perdendo la forza. Se non mi avesse tirato su, sarei sicuramente annegato. Hai nuotato così? Per più di 8 ore? Non sapevo che volessi così disperatamente andare a Kungla. Vieni, viaggia con noi. Così a Tidù fu permesso di rimanere nella nave e un giorno o due dopo la nave attraccò a Kungla. Tidù camminò per le strade di Kungla. Rimase sorpreso nel vedere case con cancelli fatti d'oro, gente che cavalcava carrozze tempestate di pietre preziose. Persino i normali venditori nei mercati sembravano ricchi nobili, principi e principesse. Posso fare una fortuna qui. Vieni a Kungla, uno sguattero può guadagnare 10 volte di più di quello che un musicista guadagnerebbe altrove. Tidù sentì tutto e decise che se uno sguattero poteva diventare più ricco di un musicista, sarebbe diventato uno sguattero. Abbandonò così i suoi flauti e si trovò un lavoro in una grande dimora. Dopo un mese di lavoro così... Sarò contento dei tuoi servizi. Ecco il tuo stipendio. In un mese, Tidù aveva guadagnato 10 volte di più di quanto avrebbe guadagnato in un anno. Ma più soldi aveva Tidù, più ne voleva. Era diventato così avido e avaro che aveva smesso di comprare vestiti nuovi. Così i suoi vecchi erano logori e strappati. Un giorno il suo maestro lo vide. Sguattero, meglio andare a comprare vestiti nuovi, altrimenti dovrei andartene da casa. Non voglio servitori che sembrino così poveri nella mia casa. La gente penserà che non ti pago bene e io non lo permetterò. Quando Tidù sentì il suo capo ammonirlo così, il suo cuore divenne miserabile. Desiderava ardentemente tutte le lodi e il rispetto che aveva ricevuto nel suo villaggio. Cercò di calmare il suo cuore addolorato vicino al lago della città. Mentre era seduto, fissando l'acqua, una faccia familiare si riflesse. Tidù alzò lo sguardo. Era lo stesso uomo che gli aveva consigliato di iniziare a suonare. Tu? Vedo che ti ricordi di me. La tua fame di soldi non ha cancellato la memoria di me dalla tua mente. Ho tutti i soldi, ma desidero il rispetto. Come puoi essere felice come sguattero se il tuo cuore è con la musica? Hai rinunciato al talento di cui sei stato benedetto per qualche moneta in più? Non è la mancanza di rispetto che ti affligge, è la tua avidità che ti fa male. Cosa dovrei fare? Mi hai mostrato la strada una volta? Per favore, mostramela di nuovo. Il modo è lo stesso. Dimentica l'avidità di denaro e ricomincia a suonare. Ma non chiedere soldi per le tue esibizioni. Vedrai che verrà ricompensato per bene. Ma sono fuori allenamento. Non so se sarò in grado di suonare come facevo una volta. Che sciocco sei stato a sprecare quell'incredibile talento che hai. Pratica, sono sicuro che diventerai così bravo come eri prima. Fino ad allora hai abbastanza soldi per mantenerti. Farò come dici tu. Quindi Tidù tornò ad esercitarsi con i suoi flauti e in poco tempo fu bravo e persino migliore di quanto non fosse stato prima. La sua musica era così dolce che la ricca gente di Kungla lo ricompensò con tesori fino a quando Tidù fu uno degli uomini più ricchi lì. Ma ormai Tidù era un uomo cambiato. Desiderava tornare a casa dalla sua famiglia. Quindi comprò una nave e iniziò a navigare verso casa con i suoi tesori. Ma ahimè, la nave incontrò un'enorme tempesta ed affondò, portando con sé tutta la ricchezza di Tidù. Fortunatamente, Tidù non affogò e si ritrovò sulla spiaggia di una strana isola. Dove sono? Ho perso tutto nella tempesta? Tidù aveva fame ed esplorò l'isola per trovare qualcosa da mangiare. Presto arrivò ad un albero pieno di mele e un altro pieno di nocciole. Raccolse da entrambi perché aveva molta fame. Tornò in spiaggia per mangiare. Ma non appena ebbe mangiato alcuni morsi della mela, il suo naso divenne così lungo che quasi toccava i suoi piedi. Cos'è questo? Devo vivere così adesso? In preda al panico, afferrò le nocciole e ne divorò alcune. Con suo sollievo, scoprì che il suo naso era tornato a posto. Questi sono frutti magici. Almeno non morirò di fame qui. Non mi importa dei miei tesori, perché ho visto che i soldi possono rendere la vita comoda, ma non possono alleviare i dolori del cuore. Ma vorrei... avevo i miei flauti da suonare. Improvvisamente il cielo rimbombò in un tuono e Tidù vide la faccia dell'uomo nel cielo. Tidù, sono così felice che tu abbia finalmente imparato ciò che è importante nella vita e che tu non sia triste di aver perso la tua ricchezza. Quindi ti restituisco i tuoi flauti. Presto sarai salvato. C'è un re nel regno di Riviera. È arrogante e pensa che lui e la sua famiglia siano le persone più belle della terra. Ha imprigionato le persone solo perché pensava che non fossero abbastanza ben vestite. Usa queste mele e noci per insegnargli una lezione e guadagna abbastanza per tornare a casa. Tidù riempì in fretta due cestini. Ne riempì uno con le mele e l'altro con le noci. E aspettò. Presto vide una nave arrivare in lontananza. Tidù salutò con la mano la nave e fu salvato. La nave attraccò in un regno chiamato Riviera. Tidù si travestì in modo tale che nessuno lo avrebbe riconosciuto. Prese il cesto di mele e andò a palazzo. Mele fresche, croccanti, dolci e succose, dorate come il sole. Mele fresche, croccanti, dolci e succose, dorate come il sole. Il cuoco stava proprio cercando delle mele per fare una torta alla famiglia reale. Quindi chiamò Tidù. Ehi, vieni qui, venditore di mele. Le tue mele sono abbastanza buone per essere servite al re? Oh, non hai mai visto mele più deliziose di queste? Dai un'occhiata e riempiti di soddisfazione. Sembrano eccezionalmente belle. Bene, prenderò l'intero cestino. Tidù prese in fretta i soldi e si precipitò lontano da lì per paura che il cuoco provasse lui stesso un morso di mela. Passarono alcuni giorni e Tidù attese pazientemente. Presto ci furono voci che la famiglia reale si fosse ammalata. E poi un giorno ci fu un annuncio. Ascoltate tutti, un messaggio speciale dal palazzo. La famiglia reale soffre di una strana malattia causata dalle mele. La malattia non minaccia le loro vite, ma è strana e colpisce i loro nasi. Chiunque può portare loro la medicina per curarla avrà metà del regno. Tidù sentì tutto, fece una polvere di noci e si travestì da medico. Andò a palazzo con le noci. Ho una cura per la malattia del re. Lascia che la famiglia prenda 5 cucchiai da tè di questo ciascuno e dovrebbe guarire entro domani mattina. Naturalmente la famiglia reale si sbarazzò dei loro lunghi nasi. E il re offrì a Tidù la sua ricompensa. Ti hai guarito e onorerò la mia promessa di ricompensa. Ma voglio darti qualcosa di più della metà del mio regno. Cosa desideri? Sire, ho sentito che ha imprigionato persone solo perché pensava che non fossero abbastanza ben vestite. Liberateli, Vostra Altezza. Sì, certamente. La mia arroganza nell'essere sofisticati e ben vestiti è stata inaccettabile. E ho chiesto già di rilasciare tutti quei prigionieri. Cos'altro posso fare per te oltre a darti metà del mio regno? Non voglio metà del vostro regno, Altezza. Fatemi solo avere una nave per tornare a casa e abbastanza soldi per comprare qualche acro di terra. Ottimo! Così il re diede a Tidù una delle sue migliori navi e la riempì di un tesoro tale che Tidù tornò a casa, acquistò un enorme pezzo di terra, vi costruì una dimora e vi abitò per sempre felice e contento con la sua famiglia, suonando i suoi flauti. Condivise la sua ricchezza con i bisognosi e non fu mai più pigro o avido. Le ricchezze e la bellezza possono perire, ma il talento e il duro lavoro non ti lasceranno mai.